tutte le mie giornate. Entra mio cuore in queste cifre, che più che con inchiostro sono vergate coi tuoi palpiti.